Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, la giornata economico-finanziaria, i mercati in primo luogo, un rimbalzo, nulla di più, lo dico perché evitare facili illusioni, più 2% Milano, più 1,20% Parigi, più 2% Francoforte, più 1% Londra, più 1,60% l'America. Allora, è chiaro che con i crolli verticali di ieri più di un operatore oggi è andato a guadagnare, a ricoprirsi, come dicono in gergo. E qui c'è da ricoprirsi dappertutto, non solo sulla borsa. Unicredit più 7%, Intesa più 4,60%, Saipem più 4,70%, Tod's più 3,80%, ST Microelectronics più 3,80%, Buzzi Unicem più 3,12% e Fiat Industrial più 2,90%. Il Banco Popolare guadagna il 2,70%, Ansaldo STS il 2,60%, come Tenaris il 2,5% lo guadagna invece il Monte dei Paschi, il 2,40 Pirelli, il 2,20 Fiat e anche Mediolanum. Mi fermo con chi guadagna più del 2. Chi perde anche oggi, Finmeccanica il 2,90, la Popolare di Milano meno 2% e A2A meno 1,40%. Euro a quota 1,37 e questo è lo scenario complessivo. Vi dico subito che per quello che riguarda i titoli in assoluto migliori non troviamo comunque i bancari, tranne Unicredit che è il quinto miglior titolo con appunto un rialzo del 6,90%. In realtà, come già ricordavamo ieri, in questo caso più che guardare alle azioni, è chiaro che le borse fanno notizia quando crollano come hanno fatto ieri, il tema vero sono gli indicatori sul rischio Italia, quindi spread e CDS, e qui purtroppo va detto che non sono saliti ma non sono nemmeno scesi, ed è una cosa a cui assistiamo ormai da settimane, cioè quando lo spread, la differenza tra quanto costa noi indebitarci e quanto costa la Germania, sale, è poi molto lenta, se non quasi impossibile, la discesa, cioè c'è una vischiosità, si direbbe, sui prezzi a scendere, per cui una volta che tu tocchi quota 430 o 450 come abbiamo fatto ieri, oggi è a 431 punti, ma insomma la discesa è molto molto lenta rispetto alla velocità con cui lo spread schizza. Oggi sono saliti anche, è salito anche lo spread francese, molto inferiore al nostro, per carità, 130 punti contro i 117 di ieri, ma ripeto, e i BTP italiani continuano a rendere il 6,20%, ieri sono arrivati al 6,33, 6,40. Attenzione che la soglia del 7%, lo ricordiamo sempre, è la soglia del punto di non ritorno, cioè quando un paese non riesce a ripagare il suo debito visti gli alti tassi di interessi. È un po' quello che capita, se mi passate il paragone, quando un privato fa ricorso agli strozzini, cioè difficilmente riesce a ripagare quel livello di interesse. Qui non c'è nessuno strozzino, c'è un mercato che valuta in maniera molto alta il rischio paese. Cercheremo di capire nel corso del programma, scusate se è un mio pallino, ma insomma questo è un paese che è da un punto di vista economico e finanziario più sano della Spagna e per alcuni versi più sano anche della Francia, che non cresce, che non esporta, che ha un deficit più alto, ha delle banche messe non male, eppure stiamo pagando una tassa, un costo altissimo per la nostra incertezza politica. Di questo parleremo lungo tutta la trasmissione, ve lo dico molto tranquillamente, anche perché è in corso il comitato di sicurezza, quello dove è presente il ministro Tremonti, e poi alle 20 vi sarà l'incontro con Tremonti, Berlusconi e altri ministri economico-finanziari e non solo economico-finanziari. Cercheremo anche di capire che cosa stia trapelando, perché insomma, non si capisce se vi saranno misure da clima di guerra o invece un tentativo ancora di prendere tempo. Il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Nel frattempo Angela Merkel e Nicolas Sarkozy si incontreranno a Cannes per il prevertice, quello molto criticato da Prodi ieri in diretta in questo programma, un prevertice che di fatto fa capire come in questo momento il boccino in Europa ce l'abbiano Berlino e Parigi, soprattutto Berlino, e domani ci si attende di capire quale sarà anche la posizione cinese e americana sui Casini, fatemelo dire, non lo dico mai, non usiamo mai parole di questo genere, ma sui casini che sta combinando l'Europa, intesa come Grecia, intesa come Italia, ma anche intesa come Francia e Germania. 349-238-6666, dicevo, per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Leggo un'agenzia appena battuta, la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, a margine del B20, che è l'incontro dei presidenti di Confindustria europei prima del G20 domani. Dicevo, la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha detto pochi istanti fa: il paese è oggettivamente in una situazione di pericolo. Abbiamo chiesto di far presto che il governo venga a Cannes con riforme già approvate, non con una lista di cose da fare. Ora, difficile in 24 ore approvare le riforme, però insomma il messaggio è chiaro: basta liste, basta lettere, tanto non servono. Siamo tornati a dei livelli peggiori rispetto a quelli già brutti di inizio agosto, e quindi tutti i tentativi fatti, manovra finanziaria, IVA, lettera a Bruxelles, si sono bruciati o sciolti come neve al sole. Siamo a livello di spread più alto rispetto ad agosto. Sì, non è una questione, lo confermo, tanto di borsa, e spiego il ragionamento. Magari la borsa nei prossimi giorni, se dal G20 arriva qualche rassicurazione, recupera quello che ha perso in una sola giornata difficile. Insomma, abbiamo bruciato tutti i guadagni di ottobre, ma magari i titoli recuperano le posizioni, sia Intesa che Unicredit ieri particolarmente bastonati. Il problema resta il rischio paese, cioè non, a me più che sapere se Unicredit farà il 3% domani o se Intesa farà il 4% domani, interessa sapere se si abbassa questo spread, perché ci sta costando a questi livelli, ci costa 4-5 miliardi di euro in più all'anno rifinanziare tutto il debito in scadenza per nei prossimi 12 mesi, sono circa 220 miliardi. 4-5 miliardi sono l'intero ammontare della manovra sull'IVA, per cui andiamo a bruciarla perché siamo considerati poco affidabili. Fossimo considerati più affidabili, risparmieremmo, diciamo, la manovra sull'IVA. Petrolio in rialzo a $93,4 il barile, e l'oro, il referendum greco ha spinto il bene rifugio per eccellenza, quasi mezzo punto percentuale, $1,728 l'oncia. Buono il dato sull'occupazione in America. Il settore privato americano ha aggiunto 110.000 posti di lavoro ad ottobre, quasi esclusivamente nel settore dei servizi, mentre sono calati gli occupati nel manifatturiero, meno 8.000. Comunque un dato migliore delle previsioni. E invece per la prima volta sale il tasso di disoccupazione in Germania, sale per la prima volta da 2 anni al 7% contro il 6,9% di settembre. La Banca d'Italia ha smentito le voci di un intervento di emergenza, mentre alle 18, confermo, ci sarà la riunione dell'ufficio di presidenza del PDL, e poi intorno alle 20 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per varare le nuove misure per far fronte alla crisi economico-finanziaria. Però poco fa il ministro, nonché leader della Lega, Umberto Bossi, ha detto: se verrà ipotizzata una riforma delle pensioni, facciamo scoppiare la rivoluzione di sicuro. E poi un dato che non ci fa piacere: l'indice PMI Market è sceso a ottobre, è un indice che misura l'attività manifatturiera in Italia, e purtroppo a ottobre c'è stata una doppia combinato disposto, diciamo, tra un calo della domanda interna e un calo anche della domanda estera, il che ha portato l'attività manifatturiera in questo paese al livello più basso da 28 mesi, dal giugno del 2009 per la precisione. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, prima ci colleghiamo con Cannes, e quindi la vigilia del G20, col prevertice, quello definito diabolico ieri da Prodi, perché è un, fa capire chi comanda in Europa, e poi ci spostiamo a Roma per capire che cosa sta uscendo o dovrebbe uscire da questo Consiglio dei Ministri alle 20. Sì, lo so che qualche il ministro e leader della Lega Bossi ha risposto a chi gli chiedeva, un giornalista, di un eventuale governo Monti con una pernacchia. Non so se sembra ancora il clima quello di esprimersi con pernacchie, gesti delle mani, lo dico senza moralismo, ma insomma ci guardano tutti, già ci guardavano prima, ma ci guardano proprio tutti in questo momento, no? Contenere le pernacchie si riesce? E allora vediamo anche cosa potrebbe uscire da questo vertice del G20. Intanto una cosa è già uscita, ossia i regali che il presidente francese Nicolas Sarkozy offrirà ai leader mondiali che arriveranno domani a Cannes. Penne Dupont per i capi di Stato e di Governo, borse di Hermès per le rispettive consorti, 25 milioni di euro per la sola sicurezza, ma 80 milioni di euro l'intera organizzazione e i regali. Il giornale satirico francese Le Canard Enchaîné l'ha definito il festival di Cannes di Sarko. E poi 12.000 tra uomini, agenti e soldati, ma questo è normale, forse un po' più di sobrietà nei regali si poteva anche fare, no? E poi, invece volete sapere di quanto rendono quanto rendono le obbligazioni greche? Beh, insomma, il rischio default porta il rendimento dei titoli di Stato greci a due anni al record storico, insomma, del 96,70%. Chiaramente solo teorico. Lo spread tra la Grecia e la Germania sui BTP a 10 anni è a 2.362 punti, vuol dire che rendono teoricamente il 23% in più. Il tasso di interesse greco, se volesse trovare qualche compratore sul mercato, sarebbe del 25%, ora voi capite che nemmeno forse lo strozzino chiede il 25%. Antonio Poglio Salimbeni, in collegamento con noi da Cannes, buonasera. Buonasera a voi. Il prevertice, cosa, abbiamo visto dichiarazioni molto molto dure di Angela Merkel sulla Grecia. Beh sì, qui la preoccupazione naturalmente, come diciamo ormai da ore, è da due giorni, è veramente altissima. Adesso alle 5:30 si riuniranno il presidente dell'Unione Europea, Van Rompuy, con Angela Merkel, con Sarkozy, Christine Lagarde, la direttrice del Fondo Monetario, Juncker, presidente dell'Eurogruppo, per fare il punto della situazione che sta sfuggendo di mano. E il prevertice sarà importante tanto quanto il vertice, perché poi due ore dopo arriva il presidente cinese Hu Jintao e il presidente cinese dovrà dire se aiuterà o non aiuterà l'Eurozona e quando. È chiaro che la decisione greca di andare al referendum ha probabilmente congelato l'ipotesi di coinvolgere i paesi, i famosi BRIC, le grandi economie emergenti nell'operazione salvataggio e di sostegno al debito sovrano dell'Eurozona. E ancora finisco alle 8:30, cena Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Papandreou e Venizelos, il ministro delle finanze greche. Che allegria! È la riunione. Che allegria! Dico, peccato che non ti abbiano invitato. No, la riunione è fondamentale, ci mancherebbe, chissà come tratteranno Sarkozy, la Merkel e Papandreou, che obiettivamente ha spiazzato tutti, anche il suo ministro delle finanze, però una mossa molto spregiudicata, ieri l'abbiamo spiegata a mio avviso molto bene, e cioè essendo lui sicuro di perdere in caso di elezioni, avendo una maggioranza risicatissima, va a blindare la sua maggioranza con un referendum, o la va o la spacca. Se la va, lui è blindato perché il paese gli dice sì, se la spacca, spacca tutto, ecco l'azzardo, diciamo, politico. Ancora Antonio, per quello che riguarda invece, è un vertice dei G20 questo, non un vertice europeo, oltre all'aiuto, meglio dire salvataggio cinese, circola anche voce che Barack Obama potrebbe prendere posizioni abbastanza dure con questa Europa che continua a litigare come i polli di Renzo? Beh, sì. Immaginabili segnali che ha dato la Casa Bianca negli ultimi giorni che chiedono chiedono decisioni definitive per gestire la crisi greca dell'Eurozona. Io credo che non ci sarà uno showdown domani e dopo, una resa dei conti fra Europa e Stati Uniti. D'altra parte gli Stati Uniti hanno estremo bisogno che l'Europa ricominci a crescere, che l'economia non rischi, siamo quasi in una fase quasi di pre-recessione sostanzialmente. Ciò preoccupa l'America. Il richiamo di Obama sarà proprio su questo. Tutti gli analisti e anche le anticipazioni che vengono da Washington vanno in questa direzione. Tra l'altro c'è una dichiarazione adesso di nuovo di Emma Marcegaglia a margine del vertice del B20 a Cannes, che ha detto no al prelievo forzoso sui conti correnti, non serve una tassa straordinaria. Ricordate, fu fatto per l'Europa per entrare nell'euro a suo tempo, anzi, o meglio, per stabilizzare la lira quando fu cacciata dallo SME, dal sistema monetario europeo. Dice la Marcegaglia: non serve un prelievo sui conti correnti, meglio a questo punto una tassa patrimoniale. Attese per Papandreou questa sera, che verrà ripreso, tirato per le orecchie da Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. Attese per i cinesi per capire se ci salvano. Una volta era la minaccia ai cinesi, lo dico anche agli amici leghisti, no? Adesso siamo lì a sperare che ci comprino il debito, e attese per Barack Obama. Ma all'Italia cosa verrà chiesto? Beh, all'Italia... No, perché la lettera, adesso, formalmente noi la lettera l'abbiamo appena mandata la settimana scorsa, no? Sì, certo, però questo G20 Berlusconi dovrà arrivare con delle decisioni prese e bisogna vedere cosa verrà fuori questa sera dal Consiglio dei Ministri a Roma. Non ci sarà una discussione sull'Italia proprio nei casi specifici. Il problema è che Berlusconi dovrà rassicurare sul fatto che è in grado di tenere la barra del timone. Si tratterà di una discussione politica non centrata sui singoli provvedimenti, che è un esame che sarà fatto in sede europea, ma certo qui dovrà dare un po' il senso politico della novità, se ci sarà novità, ben inteso. Sì, io adesso cerchiamo di capirlo, perché insomma, i tempi sono così stretti che anche se ci fosse o fanno un decreto legge stasera dopo il Consiglio dei Ministri, non so come altrimenti possono fare. Grazie intanto Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente di Radio Corriere Sole 24 Ore da Bruxelles, ma in questo momento in collegamento con noi da Cannes. Grazie a voi. Meglio morire di fame che finire in mano ai cinesi. Ah sì? No, scrive un ascoltatore. Convinto? No, dico... Siamo sicuri di questo? Meglio morire di fame che finire in mano ai cinesi? A parte il fatto che in questo momento che si sta comprando pezzi d'Italia sono i francesi più che i cinesi. Bulgari, Parmalat, con tutte le revocatorie che servono poi per fare l'operazione, Edison, per cui... Ma insomma, meglio morire di fame che finire in mano ai cinesi, ma... E perché poi i cinesi no e i francesi sì? Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Meglio morire di fame che finire in mano ai cinesi? No. Ma insomma, no, meglio non morire di fame. Meglio non morire di fame e basta. Allora, dunque, sì, vedo alcuni che scrivono messaggi sulla Lega, ma non voglio aprire una pagina politica, non è questo l'obiettivo del programma. Guido, dimmi una cosa, che cosa sta trapelando? Perché qua abbiamo visto un po' di tutto, misure di emergenza. La Marcegaglia poco fa ha detto: se stanno pensando a un prelievo forzoso sui conti correnti, meglio la patrimoniale. A parte il fatto che queste cose prima si fanno e poi si dicono, ma insomma, no, perché sennò poi la gente va in banca a ritirare i soldi dal conto corrente. Però detto ciò, la situazione è molto confusa ancora in queste ore. E diciamo che si va da uno spettro di provvedimenti che va da misure da economie di guerra a acqua fresca. E mi spiego, da un lato c'è chi dice c'è tutto praticamente. Sì, c'è tutto il contrario di tutto. Da un lato c'è chi dice che si stanno valutando, per la verità c'è stata anche qualche dichiarazione di qualche politico che dice che si sta valutando l'ipotesi di una patrimoniale, e qualcun altro ha accennato anche all'ipotesi di intervento sui depositi e i conti correnti bancari, e quindi diciamo provvedimenti drastici. Dall'altro si dice che invece si sta riproponendo l'ipotesi di fare il famoso decreto sviluppo con diciamo che occhieggia in qualche modo la lettera di impegni che è stata portata da Berlusconi in Europa la scorsa settimana, con diciamo una tempistica un po' più stretta per quanto riguarda le misure che lì sono state previste, ma niente di più di questo, e si parla di nuovo di, sì, diciamo di provvedimenti a costo zero, diciamo, ecco, questa è l'acqua fresca, ecco. Allora, sì, aspetta, perché c'è un flash di agenzia, sempre Anna Marcegaglia, appunto, che ha terminato l'incontro dei presidenti delle Confindustrie europee. Dice: se il governo non è in grado di approvare le riforme già stasera, ne tragga le conclusioni. E mi sembra il secondo invito ad andare al Quirinale nel caso non riuscisse a fare riforme nell'arco di due settimane. Sì, questo era stato già detto con chiarezza alla vigilia della missione di Berlusconi a Bruxelles, la scorsa settimana. E poi diciamo il governo se l'è cavata con una lettera di impegni che è stata accolta positivamente diciamo dal corso del vertice, ma che era diciamo sotto la spada di Damocle del giudizio dei mercati, che come abbiamo visto diciamo non è stato confortante, a parte il primo giorno. Quindi si ripropongono esattamente lo stesso quadro. Allora, scusatemi, qui però Guido, c'è al di là di quello che uscirà dal Consiglio dei Ministri. In un paese normale, però, fammi difendere il governo come faccio sempre l'avvocato del diavolo in questo caso. Allora, in un paese normale, tu la settimana scorsa hai scritto la lettera a Bruxelles che voleva Bruxelles, recependo in buona parte la lettera che ti ha scritto la Banca Centrale Europea un mese fa. Basta, uno dice: bene, adesso faccio l'iter parlamentare, siamo una democrazia parlamentare, il governo propone la legge e se la fa approvare eventualmente anche con la fiducia al Parlamento. E invece non è bastato. Allora qui c'è un problema che mi sfugge, perché insomma non si può neanche immaginare che scrivi la lettera e tre giorni dopo si approva tutto. Evidentemente non c'è neanche voglia di aspettare, quasi, perché ripeto, la lettera l'abbiamo appena mandata. Se mi rispondi dopo il metro mi fai una cortesia, anche perché vorrei aprire l'ultimo tema con te, che si chiama, ieri ci ha alzato la palla Romano Prodi, nostro ospite, Giulio Tremonti. Cioè, qui c'è un problema di un ministro dell'economia, ogni giorno leggiamo di scontri durissimi col Presidente del Consiglio. Se fosse il ministro della difesa già sarebbe grave, ma con la crisi economico-finanziaria avere uno scontro del genere con il ministro dell'economia non ti porta da nessuna parte. Dopo il meteo, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, nel frattempo sono usciti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, chiaramente sono uscite alcune agenzie. A quanto ammonta il debito pubblico italiano in mano a stranieri? È la Banca d'Italia che ce lo precisa nel rapporto sulla stabilità finanziaria. 1.900 miliardi di euro, praticamente, rispetto a altri paesi è una quota abbastanza bassa, lo dice la stessa Banca d'Italia, una quota relativamente contenuta. Il 39% del debito pubblico è in mani straniere, il 61% è chiaramente in mani italiane, e già questo non è una cattiva notizia. Poi la Banca d'Italia fa sapere che il debito italiano è sostenibile e resterebbe stabile anche se i tassi di interesse arrivassero all'8%. Noi abbiamo sempre detto che il 7% era la soglia di non ritorno. La Banca d'Italia smentisce e questo dice: un debito italiano è sostenibile anche con tassi all'8% e anche con un PIL con crescita pari a zero. Però poi dice: le banche italiane sono solide, non sono quelle la fonte di instabilità, occorre onorare, e qui l'invito è rivolto al governo, rapidamente gli impegni con l'Unione Europea. Prima uscita di Ignazio Visco come neo governatore della Banca d'Italia. Allora, Guido Gentili, perché tutta questa fretta, visto che la lettera l'abbiamo appena spedita? E qui c'è un caso, ormai un caso, i rapporti tra Tremonti e Berlusconi sono difficilissimi da mesi, ma noi, cioè, ma leggere sui giornali come oggi un virgolettato in cui Tremonti avrebbe detto a Berlusconi: io questa lettera neanche la firmo perché tanto non risolve i problemi, la causa dei nostri problemi sei tu, è devastante per gli stranieri, per chi investe, o no? Ma certamente, e questo è uno dei motivi per cui si presentano le lettere in sede europea e poi immediatamente due giorni dopo si ricomincia a chiedere all'Italia un maggiore impegno. Il problema è la credibilità del paese, che ovviamente si misura non solo quando, nel momento in cui si presenta la lettera nel corso di un vertice europeo, ma si misura ogni giorno sui mercati a colpi di tassi di interesse e di rendimenti. E quindi questa è, diciamo, la situazione oggettiva. Tu avevi ragione prima a ricordare, dice, beh, la strada presentata adesso, cominciamo, i primi impegni sono previsti tra due o tre settimane, cioè, quindi a metà novembre e fine novembre. Quindi non c'è, dateci il tempo, cioè, la lettera che abbiamo scritto dice fra tre mesi una cosa, fra quattro mesi un'altra cosa, fra sei mesi un'altra. Benissimo, questo è vero, questo è vero, però è anche vero che, per esempio, hai toccato un punto importante, cioè il rapporto tra il ministro dell'economia, cioè il ministro più importante della compagine di governo, e il presidente del Consiglio. E questo è un rapporto che non si riesce a stabilizzare da alcuni mesi, non da alcuni giorni. Questo lo sappiamo noi, diciamo, osservatori italiani, ma lo sanno benissimo anche all'estero, per le battute che sono state anche fatte sia da Berlusconi sia soprattutto da Tremonti. Quindi è un paese che si presenta in difficoltà, che è il paese, diciamo, con il più alto debito pubblico europeo, il terzo nel mondo, che è sotto tiro, e si presenta con un premier che la pensa diversamente dal suo ministro dell'economia e viceversa. È chiaro che non mi meraviglia se poi ogni giorno i mercati ci chiedono di fare un passo più avanti, perché poi nessuno, diciamo, ha fiducia in fondo sull'azione di politica economica del governo. Romano Prodi, ieri nostro ospite su Tremonti. Non si sa che cosa si faccia, che cosa non si faccia. Il ministro dell'economia è latitante. Lui era partito male, aveva acquistato una certa serietà internazionale, una certa fiducia. Negli ultimi tre mesi ha rovinato tutto. In questi giorni era in giro per convegni, dove tra l'altro è brillante, ma non è più a Roma. E nello stesso tempo le dichiarazioni di Berlusconi e di Bossi, pensi a Berlusconi, che fa dopo che il giorno dopo esatto in cui in teoria aveva chiesto e ottenuto un soccorso europeo, dice: a me dell'euro non mi importa nulla, non lo voglio. Bossi ieri ha detto cose addirittura così abbastanza. Vabbè, era la sagra della zucca. Sì, però insomma dobbiamo mettere il cuore al posto del tasso, ma insomma, ragazzi. Allora, giustamente l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi farà anche politica, per quanto non è, diciamo, non è parte attiva in questo momento, ma insomma, Guido Gentili, però delle due l'una, perché qua non possiamo continuare a scrivere lettere a Bruxelles, fare decreti d'urgenza. O Berlusconi trova un accordo con Tremonti e viceversa, o manda via Tremonti, cioè, o va via lui. Non c'è dubbio, ma infatti questa è una cosa che noi avevamo chiesto un chiarimento tra i due già qualche mese fa, perché è impossibile continuare su questa strada. Anche perché Tremonti ha fatto sapere a mezzo mondo che quella lettera lui non l'aveva neanche scritta, non l'aveva neanche vista, cioè uno all'estero che deve pensare. Prego. Ecco, ma voglio dire, ecco, se è vero questo, allora il ministro dell'economia doveva assumersi le sue responsabilità e dimettersi, visto che non ha visto la lettera, non la condivide, beh, uno ne prende atto. Viceversa invece continua questo stillicidio di guerriglia tra i due, e questo non fa bene al paese, anzi, diciamo, ci complica la vita ancora di più. A questo punto, secondo te, che cosa dovrebbe uscire dal Consiglio dei Ministri di questa sera? Cioè patrimoniale, prelievo forzoso sui conti correnti, insomma, ma che cosa? Perché Berlusconi domani va a Cannes e non è che può presentare, sì, un film già visto. Il vertice di Cannes, come è una riunione del cosiddetto G20, lo dice la parola stessa, insomma, non è una sede, diciamo, immediatamente operativa. Però è anche vero che l'Italia e oltre ovviamente alla Grecia, ma l'Italia è la sorvegliata speciale d'Europa, quindi è chiaro che Berlusconi deve presentarsi a questo appuntamento con un pacchetto di misure. Vogliamo chiamarlo un decreto, un decreto che diciamo il Consiglio dei Ministri ha varato la sera precedente, cioè stasera. E quindi non si scappa da questa logica e non può essere un decreto a costo zero dove c'è come era comparso nelle prime bozze il problema della liberalizzazione del prezzo della margarina, insomma, quindi bisogna fare qualcosina di più. Grazie, speriamo veramente, ve lo racconteremo chiaramente domani in diretta, nei GR di questa sera domani mattina. Grazie intanto all'editorialista del Sole 24 Ore Guido Gentili. Grazie a voi. Allora, non capisco un messaggio al 349-238-6666 che dice, ma insomma, in estate criticavate perché con l'Europa parlava solo Tremonti, adesso criticate perché con l'Europa parla solo Berlusconi. No, non ho detto questo. Mi spiace. Abbiamo detto che in un momento così difficile, qualunque tensione tra il Presidente del Consiglio e il più importante ministro di questo governo, che si chiama Giulio Tremonti, viene vista come la conferma all'estero che questo governo non è in grado di fare le riforme promesse. Ed è, non sto parteggiando né per Tremonti né per Berlusconi, sto solo dicendo che questo dialogo tra sordi va risolto in qualche modo, perché è devastante leggere sui giornali quello che abbiamo letto oggi, e da settimane che leggiamo che Tremonti ha subito preso le distanze con la lettera che Berlusconi ha spedito a Bruxelles. Ora, voi immaginate che credibilità ha un paese in cui il ministro dell'economia prende le distanze da una lettera tutta economica spedita agli investitori e ai partner europei per rassicurarli sulle manovre economiche di questo paese. Nel frattempo non ci sono solo le borse, vedo che hanno fatto molta impressione i regali che Sarkozy offrirà ai partecipanti al vertice del G20, per carità, le penne Dupont per i capi di Stato, le borse di Hermès per i consorti, 80 milioni di euro spesi per organizzare il vertice. Ci sono anche cose più carine. Ve lo racconto dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, giustamente un ascoltatore scrive, ma perché dovremmo sputare noi e anche i greci? La Grecia è un caso diverso, ha truccato i conti, ha un'economia che non regge, ma insomma noi dovremmo sputare sangue e farla a fame per salvare le banche tedesche e francesi quando le nostre banche sono sane? Ha ragione. Le nostre banche sono messe sicuramente meglio di quelle francesi e forse anche di quelle tedesche. Hanno meno obbligazioni di paesi a rischio, hanno obbligazioni italiane, il deficit italiano è messo meglio, esportiamo molto più della Francia, siamo i secondi esportatori dopo la Germania a livello europeo, abbiamo un mercato immobiliare che tiene. E allora, la variabile, il motivo per cui abbiamo 440 punti di spread, si chiama variabile politica, capacità del governo di fare le riforme, non sappiamo più come dirlo. Borsa. E poi vi racconto invece che cosa hanno fatto i militari, di nuovi militari, sempre nell'occhio del ciclone, perché mica c'è solo la casta dei politici, stiamo scoprendo che c'è anche la casta dei generali, 19 Maserati e adesso pure le badanti, le Golf. Prima però la borsa, prima le cose serie e poi quelle tragiche invece. Più 2,31% Milano, più 1,40% Parigi, più 2,25% Francoforte, più 1,20% Londra e più 1,40% in questo momento l'America. Euro a quota 1,3750. Unicredit, che ieri assieme a Intesa San Paolo ha avuto il crollo di borsa più forte della sua storia, peggio anche del crack Lehman Brothers, più 7,34% a 80 centesimi di euro. Intesa San Paolo più 5% a 1,14 euro. Saipem più 5,30 a 31,5 euro per azione. ST Microelectronics più 4%, Buzzi Unicem più 4% come Tods, Fiat Industrial più 3,70, il 3,5% lo guadagna Tenaris, 3,20 Fiat, il 3% di Assorin e Monte dei Paschi, il 2,70 Pirelli e Ansaldo STS, il 2,5% in Pregilo e il 2,20 Mediaset. Perde la Popolare di Milano il 3%, Finmeccanica il 2,90, A2A l'1%. 41,40%. E come sempre l'aggiornamento lo facciamo con i colleghi di Radio Colli, Sole 24 Ore. Paolo Peronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Rimbalzino? Sì, rimbalzino. È di copertura? Rimbalzino di copertura in attesa di tutti gli appuntamenti da cui gli operatori attendono chiarezza, o almeno più chiarezza, sulla congiuntura economica globale e sulla situazione del debito e dell'Eurozona. Ricordiamo i principali: a breve atteso il prevertice europeo sul dossier Grecia a Cannes e il Consiglio dei Ministri italiano, e proprio in questi minuti stanno uscendo l'esito del vertice della Federal Reserve negli Stati Uniti, che ha confermato i tassi al livello eccezionalmente basso, cioè tra lo 0 e lo 0,25%, e ha annunciato di vedere rischi significativi sulle previsioni dell'economia. Non ha tagliato al momento le previsioni sull'economia, ma ha appunto annunciato questi rischi significativi, e quindi in attesa di tutti questi appuntamenti gli investitori sono un po' ricoperti dopo lo scivolone di ieri e delle ultime sedute, ma insomma è presto per dire che poteva anche solo sperare che sia tornato un po' di sereno. Sì, insomma, ricoperture, chiamatele come volete. Perché la Pop Milano perde anche oggi, però? Beh, la Pop Milano è l'unico titolo bancario che appunto ha motivazioni tutte sue. Continua, cioè, l'aumento di capitale, sì. Continua l'aumento e continuano a essere vendute sia le azioni che i diritti. Oggi il diritto ha perso un altro 30%, continua a essere più conveniente comprare il diritto rispetto al titolo in borsa. Diciamo che le negoziazioni in questa fase si concentrano tra chi vende parte dei suoi diritti e chi li acquista per prendere nuove posizioni sul titolo. Poi si vedrà nella seconda settimana se questa volta si invertirà, come abbiamo visto succedere in precedenti analoghe operazioni, del resto. Dunque, che messaggio ogni tanto. Dice, ma dov'è che lei vede che il nostro mercato immobiliare è sano? Io ho solo detto che non è in bolla, non ho detto che sia sano. Cioè, rispetto alla Spagna, che ha migliaia di appartamenti invenduti, le casse di risparmio regionali che si sono indebitate per prestare mutui agli spagnoli, noi non abbiamo un mercato immobiliare in bolla, i prezzi non sono crollati, abbiate pazienza, non ci sono subprime in questo paese praticamente, grazie anche in questo caso all'oculatezza delle banche italiane, che hanno altri demeriti, ma questo merito ce l'hanno sicuramente. Chi, non ho mai detto che non ho mai chiesto le dimissioni di Tremonti, ho fatto presente che è difficile essere creduti quando tu hai il Presidente del Consiglio e il suo ministro più importante che non si parlano. Uno non legge le lettere che l'altro scrive, l'altro non gli vuole parlare, l'altro fa sapere che il problema è Berlusconi. Cioè, quanto possiamo andare avanti così? Chiudo la parentesi. Finmeccanica, -2,90. Finmeccanica è stata tra i peggiori tra le blue chip fin dall'avvio, e nonostante alcuni giudizi positivi da parte delle banche d'affari, in particolare Intermonte. Tra una settimana il gruppo annuncerà i conti trimestrali e forse aggiornamenti sulle stime per l'intero esercizio. C'è da sottolineare che oggi l'amministratore delegato Giuseppe Orsi, in un colloquio con la stampa, ha ammesso che gli ultimi mesi non sono stati troppo brillanti, ha confermato la volontà di uscire da alcune settori di attività che non fanno parte del core business, ma certo il mercato non è esattamente un mercato per i venditori, è difficile trovare chi è disposto a pagare quanto la società valuta nei propri asset, e inoltre circola la voce sul mercato, insomma il timore che nel tentativo di ridurre le spese il governo possa anche ridurre gli investimenti in difesa, e quindi certo, ovviamente Finmeccanica ne risentirebbe. Allora, per dare un'idea di che cosa sia successo in questi 12 mesi, le prime 5 banche italiane, cioè stiamo parlando di Intesa San Paolo, Unicredit, MPS, Monte dei Paschi e UbiBanca, ma anche Banco Popolare, assieme valgono in borsa meno di 40 miliardi di euro. Le prime 5 banche italiane. Pensate che prima dello scoppio della crisi, da sole, Intesa o Unicredito valevano più di quanto non valgano adesso le stesse banche assieme ad altre 4. Questo, cioè, si è ridotto di un quinto il valore della capitalizzazione di borsa di fatto delle banche italiane. Sul mercato, migliori e peggiori oggi in borsa, segnalo prima di arrivare ai migliori e peggiori, ST Microelectronics mi interessava. Sì, esattamente. S&P è stato tra i migliori del settore tecnologico e tra i titoli industriali. Qui c'è una notizia specifica: l'annuncio è del colosso finlandese Nokia, che ha reso noto di aver scelto la joint venture tra S&P e Ericsson per la fornitura di componenti per i nuovi telefoni basati sulla piattaforma Windows Phone, cioè quella che deriva dall'accordo appunto stretto con Windows e quindi con la Microsoft. S&T appunto beneficia di questo annuncio. Nokia rappresenta da sempre gran parte del fatturato della casa italo-francese, quindi oggi gli investitori ne hanno approfittato spingendo il titolo tra i migliori del FTSE MIB. Migliori e peggiori in assoluto. Allora, il migliore Mer Tecnimont più 13,82, BS più 12,90, CHL più 9,94. Il peggiore Vivendi meno 6,50, SNAI meno 5,80%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore. Dicevo, non ci sono solo gli 80 milioni spesi da Nicolas Sarkozy in buona parte per regali, oltre che per la sicurezza dei 20 leader. Va benissimo fare i regali, ma insomma la borsa di Cartier o di Chanel, di chi era la borsa? Di Hermès, scusatemi, è regalata a tutte le mogli, poteva esserci anche un gesto un po' più sobrio, vista la situazione. Ma al di là di questo, molti di voi ancora continuano a indignarsi per le 19 Maserati dei generali della difesa blindate e anche per la risposta del ministro La Russa, diciamo uno scivolone quello di La Russa. Beh, i generali ne hanno combinato un'altra, però. Eh sì, evidentemente c'è una casta anche nell'esercito che dà una garanzia, perché un esercito che pensa ai Maserati e alle Golf è un esercito, diciamo, che non destabilizza certo il paese. Ma insomma, pensate che c'è un bando di gara per trovare le COF, le donne delle pulizie, le COF, per 9 appartamenti di altissimi generali dell'aeronautica. Per 4 anni di questi tempi, sapete quanto offre l'aeronautica, quanto può spendere l'aeronautica per far pulire gli appartamenti, 9 appartamenti di 9 grandi generali per 4 anni? Io voglio fare un test, vediamo se qualcuno ci arriva. 2.300.000 euro. Io, saranno delle badanti incredibili, perché sono 2.300.000 euro più compresa l'IVA, praticamente 250.000 euro di badante per appartamento. E io pago. Non badanti, mi sono sbagliato, colf, sono colf che devono pulire, ci mancherebbe, badante al generale diventerebbe offensivo, la colf invece no. 250.000 euro ad alloggio. GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Per chi si fosse appena messo in collegamento, ricoperture oggi in borsa più 2,30% Milano, più 2,25% Francoforte, più 1,5% Parigi, Londra più 1,15%, ma lo spread italiano resta alto, 430 punti, così come il rendimento dei nostri BTP resta ampiamente sopra il 6%, 6,2%. Molti di voi si stanno offrendo come colf per i generali dell'aeronautica. Io non sto scherzando, ma veramente il bando dell'aeronautica per pulire 9 alloggi delle massime cariche dell'aeronautica militare vale 2.300.000 euro per 4 anni. Significa 250.000 euro per la colf per 4 anni, cioè 56.000 euro di colf all'anno per ogni singolo appartamento. Allora, se si guarda il bando si capisce anche perché: occorre fare servizi di pulizia, riassetto camere, locali connessi, spazzatura, lavatura dei bagni, lavatura degli specchi, per carità, tutte cose che una colf giustamente fa. Gli appartamenti sono 4 a Roma, 1 a Milano, 1 a Firenze e 1 a Poggio Renatico e Ferrara, un altro a Pozzuoli, infine ce n'è uno a Bari. L'alloggio del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica a Roma è grande 400 metri quadri, un po' di più, perché ha 400 metri quadri di parquet, 140 metri quadri di marmo, 275 metri quadri di terrazzo, ma che è? E 48 metri quadri di pianerottolo all'interno, 190 metri quadri di maioliche, ed ecco perché si arriva a 60.000 euro lordi l'anno quasi di pagamento della Colf in questo periodo, dopo le 19 Maserati ai generali. Vedete che la casta poi si estende anche alle stellette. Parliamo di Europa, che è meglio. E allora, come detto, riapriamo la pagina anche e soprattutto europea in questa crisi, che io ricordo sempre la definizione di Giulio Tremonti, che in questo momento vive e ha i suoi problemi, però quando la definì un videogame, ha battuto un mostro, se ne apre un altro. In realtà qui stiamo trascinando i mostri da un anno, a mio avviso. E allora la Grecia, il presidente della Commissione Europea Barroso ha detto ha fatto un appello definito da lui stesso urgentissimo e accorato all'unità politica nazionale in Grecia. Ha detto: senza un accordo le condizioni per i cittadini greci diventeranno molto più dolorose. E poi, poco dopo, anche Berlino è nuovamente intervenuto sulla vicenda greca. La situazione è seria, ha detto Berlino. Il tempo fino al referendum non può essere tempo perso, né per la Grecia né per l'Eurozona. Non possiamo permetterci in questa situazione internazionale. Angela Merkel, intorno a metà pomeriggio, dopo un colloquio con il premier turco Erdogan, ha detto: abbiamo concordato con la Grecia un programma, vogliamo che sia applicato e abbiamo bisogno di chiarezza, e a questo serve il colloquio di questa sera. E poi ha aggiunto la Merkel per noi: contano i fatti. Ancora più critico, se vogliamo, il presidente francese, non Sarkozy, il presidente della Repubblica francese, François Fillon, che ha detto di essere solennemente dispiaciuto per la decisione presa in modo unilaterale da Atene, e ha aggiunto: la Grecia ci dica se vuole restare nell'euro. E allora, con piacere, ringrazio per averci raggiunto in collegamento Daniel Gross, che è direttore del Center for European Policy Studies, il CEPS di Bruxelles. Buonasera, professore. Buonasera, Bruxelles. La sentiamo leggermente bassa, si può alzare appena appena il tono. Allora, prima domanda, poi andiamo sui temi europei. Lei è ancora convinto che il futuro della moneta unica dell'euro dipenda da Roma più che da Atene? Senz'altro, ancora di più, perché che Atene ce la faccia o no a restare nell'euro, oramai non ci si può scommettere più. Ma Roma, l'Italia, rimane un elemento indispensabile per l'euro, e l'unica ragione per cui c'è stata questa reazione così violenta dei mercati è perché gli investitori dubitano ancora della capacità dell'Italia di prendere le misure necessarie. Allora, io tornerò sull'Italia fra un attimo con lei, perché a me sembra che si stia ingarbugliando anche l'intera vicenda europea, e cioè oggi in previsione del G20 a Cannes il vertice, il pre-G20 franco-tedesco, da molti definito un direttorio. Praticamente si dice in questo modo: il messaggio che esce è che non c'è l'Europa, ci sono la Francia e la Germania che decidono e poi gli altri paesi vanno ad accodarsi. Lei è d'accordo? È chiaro che la Francia e la Germania decidono per l'Europa, ma Papandreou ha fatto vedere l'impotenza dell'Europa. Se un paese dice: io prendo questo rischio, io sono anche disposto ad andare contro l'Europa, costi quel che costi, a questo punto l'Europa diventa impotente. E lei non teme che in questo modo comunque si sancisca la fine dell'Europa, perché se Berlino e Parigi decidono quali sono i temi in agenda, non si può più parlare di un'Europa, di un Consiglio europeo, ma di una così diarchia, Francia e Germania? Ma a questo punto non si tratta tanto chi parla per l'Europa, che siano francesi, tedeschi solamente o che siano tutti i 27. Neanche una settimana fa tutti i 27 hanno preso una decisione in cui Papandreou era pienamente parte. Sei giorni dopo lui decide di andare contro la decisione alla quale ha partecipato. Mm-hmm. Per cui la questione non è di a chi è franco-tedesca, ma qual è la potenza dell'apparato europeo quando un paese si trova in crisi. Cioè lei dice, visto che dobbiamo salvarlo, vogliamo anche contare qualcosa? Dovremmo contare qualcosa come Europa, ma la Grecia ci ha fatto vedere, stati membri sono ancora sovrani, fanno quello che vogliono e non c'è niente che l'Europa possa fare a questo punto. Però, mi scusi se insisto, ma col seno di poi, se la Germania, cioè se Angela Merkel non si fosse impuntata un anno fa, a marzo del 2010, salvare la Grecia allora costava pochissimo, avremmo evitato 1.000 miliardi bruciati sulle borse europee in un anno, avremmo evitato che dopo la Grecia toccasse la Spagna e l'Italia, cioè avremmo bloccato il virus, la malattia sul nascere, o no? Io non penso, per quanto riguarda la Grecia, se la Merkel non si fosse impuntita, poi la Grecia avrebbe fatto ancora meno in quanto aggiustamento, avrebbe adesso un deficit, un debito ancora maggiore e il problema sarebbe comunque lo stesso, perché i mercati non avrebbero mai creduto che la Germania e la Francia paghino all'infinito per una Grecia che continua a spendere i soldi. Mm. Allora, professor Grosso, dopo il traffico vorrei anche capire qual è il suo giudizio dall'Osservatorio di Bruxelles sulla situazione italiana. Il traffico e poi di nuovo in diretta 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, professor Daniel Gross, lei appunto che dirige il Center for European Policy Studies di Bruxelles. Allora, ieri Romano Prodi, l'abbiamo fatto anche ascoltare, ha definito troppo dure le misure imposte alla Grecia, delle misure che in sostanza un rimedio che finisce per uccidere il paziente. Lei è d'accordo? No, non sono d'accordo. Prima di tutto si è già fatto una terapia molto simile per la Lettonia, dove ha funzionato. C'è stata una contrazione violenta dell'attività economica, ma dopo un anno il paese è uscito dalla crisi. Per la Grecia, come per il Portogallo, il problema di fondo è molto semplice. Il paese spende di più che quanto non produce. E la terapia in questo caso può essere solamente una. Il consumo deve diminuire e questo non piace mai a nessuno, ma a questo punto non c'è scampo. Se non ci sono più i soldi, i greci si devono aggiustare e a questo punto l'Europa c'entra poco. Ancora, le faccio ascoltare sempre Romano Prodi ieri, ospita Focus Economia, il giudizio abbastanza critico su Merkel e Sarkozy, definiti diabolici, e poi anche la critica che ha mosso Romano Prodi, cioè l'accordo franco-tedesco prevede che per le banche francesi e tedesche vi possa essere una contabilità abbastanza favorevole quando hai prodotti tossici e prodotti a rischio. E invece si chiede alle banche italiane, che obiettivamente sono messe meglio di quelle francesi e forse anche di quelle tedesche, di ricapitalizzare. Sentiamo Prodi però prima. Sarkozy e la Merkel sono stati, secondo me, diabolici in questi mesi, perché rendendo l'Europa da un'Europa comunitaria in Europa intergovernativa, si rende conto che ormai noi abbiamo accettato il prevertice, che detta tutto, poi un prevertice per modo di dire, perché è un prevertice in cui lei detta le regole e lui fa la conferenza stampa, insomma si usa una simmetria contro l'Italia che fa spavento, però è come sparare sulla Croce Rossa, ma non vede che ogni giorno c'è un discorso diverso, non si sa che cosa si faccia, che cosa non si faccia. Il ministro dell'economia è latitante, lui era partito male, aveva acquistato una certa serietà internazionale, una certa fiducia, negli ultimi 3 mesi ha rovinato tutto. Quindi diabolici la Merkel e Sarkozy, latitante Tremonti, che pure Prodi riconosce si era costruito una sua credibilità internazionale rovinata negli ultimi 3 mesi. Daniel Gross, diabolici, io ieri li ho definiti Alfred e Mildred perché insomma una decide, l'altro parla, ma insomma diabolici o no? No, non penso diabolici, tutti e due vorrebbero salvare l'euro, ma sono politici, per cui fanno anche i loro giochetti. Quando si tratta di salvare le banche, è chiaro che fanno le regole in modo che le banche tedesche e francesi soffrino il meno possibile, che poi le altre banche, incluse quelle italiane, soffrino molto di più. questo fa parte per loro del gioco politico. Quindi secondo lei doveva essere l'Italia a imporsi su questo? Ma l'Italia non può imporsi se si mette in una situazione del genere. L'Italia ha i conti non totalmente in regola, ma ha una situazione economica abbastanza buona. E la debolezza politica dell'Italia è che non permette all'Italia di giocare il suo ruolo, che la mette a ginocchio. Quindi, no, questo è un punto importante. Lei dice, come anche noi abbiamo sostenuto in questi giorni, devo dire, che i conti economici, chiaro che la situazione è difficile per tutti, però il deficit italiano è più basso di quello francese, le banche sono banche solide, l'industria continua a essere la seconda industria che esporta a livello europeo come volumi e come valori. Il problema, cioè lo spread a 440 è tutto politico invece che a 240? È giusto, ma su questo l'Europa non ci può fare molto. Questo è un problema veramente italiano, è un problema che va risolto a Roma, magari Roma, Milano e altri posti, ma è qualcosa sul quale l'Europa può solamente stare a guardare. Cioè, se io dicessi che la Grecia ha un vero problema economico e finanziario, mentre l'Italia ha solo un problema politico? È giusto, la Grecia ha sin dall'inizio un problema economico di una proporzione tale che fino all'inizio era molto dubbio che potesse riuscire a risolverlo. Ma l'Italia è il contrario, ci vuole veramente una classe politica speciale per portare un paese abbastanza solido in questa situazione. Ecco, un paese abbastanza solido, questo è il paradosso, paghiamo dei prezzi sul mercato più alti della Spagna pur essendo ben più solidi della Spagna, lo dico con massimo rispetto verso gli spagnoli. E ricordo che fino a maggio il nostro spread era 240-260 punti, cioè era tutto sommato accettabile. C'è chi però pensa, a un certo momento è tentato dal pensare, beh, insomma l'Italia è troppo grande per fallire, per cui alla fine ci dovrete salvare comunque. Sentiamo la risposta che ci ha dato due giorni fa Piercarlo Padoan, che è il capo economista dell'OCSE. Pensare che nessuno ci farà fallire perché siamo troppo grandi come italiani è un gioco veramente pericoloso. Siamo noi i primi a dover prendere le misure necessarie per uscire da questa crisi. Se un paese grande dell'Europa, qualunque esso sia, fallisce probabilmente l'intero progetto dell'euro. Siamo disposti a far fallire l'euro o no? Però questo significa anche che se si risponde non lo vogliamo far fallire, bisogna pagare i costi per ottenere i benefici. Abbiamo già aspettato troppo. Qui va presa azione decisa a livello europeo. Cifre chiare, meccanismi chiari, e questo ancora non c'è. Allora, per concludere, professor Daniel Gross, visto che lei dirige il centro di studi sulle politiche europee e osserva i vari paesi, secondo lei qua come va a finire? Cioè, ho capito, voi dite c'è una debolezza politica tale per cui l'Europa non si fida non della salute dell'economia italiana, che tutto sommato non è messa così male, ma della capacità della politica, quindi del governo, di fare le cose che ha promesso. Alla fin fine ci sarà una sterzata, Berlusconi può ancora farcela, lei ritiene che invece sarebbe solo un prolungare l'agonia, meglio un governo tecnico, meglio elezioni, insomma un'idea se la sarà fatta da Bruxelles? Ma pare abbastanza evidente che questo governo non ha più la credibilità né dell'Europa né dei mercati. Ci vuole o un governo nuovo o lo stesso governo che faccia le cose molto diversamente. E, di nuovo, è qualcosa sul quale l'Europa ha poca influenza. Può solamente star a guardare e sperare che l'Italia si dia un colpo di reni, e per il momento non lo si vede, non si vede né da parte del governo né per il momento neanche la parte dell'opposizione. Sembra che tutti i partiti e i partitini siano in un gioco continuo di trarre un massimo di vantaggio da questa situazione invece di pensare al bene comune del paese. L'un contro l'altro armati, quindi dice un governo di grossa coalizione, di grande coalizione? O tecnico. Un governo tecnico, uno di grande coalizione o un nuovo governo, questo io starei a vedere, è quello che coglie il massimo di adesione sociale e politica che possa fare per fare le riforme possibile. Quanto reggiamo altrimenti così, secondo lei? Poi il tempo stringe, il tempo si conta oramai in settimane, perché se la situazione non migliora l'Italia si troverà sui mercati che non gli danno più niente. E a questo punto l'Europa non potrà rispondere perché le somme richieste per l'Italia sono semplicemente troppo grandi. certo. Scadono 220 miliardi di debito proprio nei prossimi 12 mesi. Grazie al direttore del Center for European Policy Studies di Bruxelles, Daniel Gross. E allora, domani, appena battuta la notizia delle agenzie, vi sarà un prevertice. Qui continuano i prevertici. Questa sera il prevertice Germania, Francia e Grecia. Domani un altro prevertice prima del G20 ufficiale di Cannes con Germania, Francia, ma Italia e anche Spagna. Alle 10.30 di domani mattina. Per quello che riguarda sempre la crisi, poco fa è intervenuto il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini, che era salito al colle, si era recato dal Capo dello Stato, Capo dello Stato che ieri, come sapete, ha chiesto anche di pensare a maggioranze allargate per fare le riforme e ha detto che ci sono parti dell'opposizione che sarebbero disponibili, però Casini ha chiarito subito il suo pensiero. Ogni sacrificio è inutile senza un passo indietro del Presidente del Consiglio. Quindi se non se ne va Berlusconi, l'UDC non entra in un eventuale rimpasto di governo. La buona notizia di oggi, oltre a quella che ci ha fornito la Banca d'Italia, e la Banca d'Italia ha detto nel suo rapporto oggi, attenzione, il debito italiano si può reggere anche se i tassi dovessero andare all'8% e la crescita essere zero, e se lo dice la Banca d'Italia ci fidiamo. I dati delle immatricolazioni auto, pur essendo negativi, sono abbastanza buoni per Fiat. Perché? Perché perde meno della media del mercato. Il mercato in ottobre ha fatto meno 5,5%, Fiat ha fatto meno 2,8% e la quota del gruppo Dell'Ingotto è risalita al 28,5%. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi auguro buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.